Incontri di Gianfranco Fabi. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Con la voce e le note di Lucio Dalla, buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Giovanni Brugnoli. Buonasera, ben ritrovati. Giovanni Brugnoli, imprenditore, presidente industriale della provincia di Varese. Abbiamo sentito Lucio Dalla con questo augurio di buon anno, un augurio di buon anno che facciamo anche a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, che cosa scriverebbe nel suo augurio di buon anno Giovanni Brugnoli? Che sia un anno diverso rispetto agli ultimi sette passati, perché arriviamo da un periodo congiunturale veramente difficile, e speriamo che l'anno in cui il nostro paese ospita un importante evento quale l'Expo sia da volano in maniera positiva nei confronti della nostra industria. Quindi auguro a tutti un po' più di serenità e decisamente un po' più di lavoro. Ecco, il 2014 è passato, l'abbiamo messo in archivio, un anno diciamo da dimenticare nelle sue conclusioni statistiche, però è stato almeno un anno che alla fine ha dato qualche segnale di ripresa. Possiamo guardare a questo 2015 con qualche elemento, se non di speranza assoluta, almeno di un po' di ottimismo? Personalmente sono sempre ottimista, perché sennò non farei il mestiere dell'imprenditore. È stato un anno comunque difficile, meno difficile rispetto agli altri, perché nell'ultima parte dell'anno si intravedono dei leggeri e dei piccoli segnali di piccola e lieve ripresa. Certo che la strada da percorrere è veramente ancora lunga e molto in salita. Ci sono alcuni provvedimenti sul campo fatti dal governo che potrebbero innescare un processo virtuoso all'interno dell'industria italiana, ma ripeto, la strada da percorrere a nuovo ce n'è tanta. Ecco, uno dei temi è proprio quello del lavoro. Questo Jobs Act che il governo ha varato può modificare qualcosa sul fronte delle imprese, sul fronte della possibilità di rispondere alla forte domanda di lavoro che c'è soprattutto da parte dei giovani? Io credo che il grande malato è veramente il lavoro, perché pensare che ci sia una disoccupazione giovanile superiore al 40% e che il nostro paese è arrivato a una quota del 13% di disoccupazione negli ultimi 5 anni è veramente il grande cruccio di tutti, quindi degli imprenditori e del governo. Il governo si è mosso con questo provvedimento con il fatto di voler incentivare l'assunzione a tempo indeterminato dando un'agevolazione fiscale agli imprenditori. Sicuramente è un buon provvedimento, certo è che i posti di lavoro non si producono per decreto, certo. Perché credo che se un imprenditore ha la necessità di un nuovo collaboratore perché gli si aumentano le commesse o comunque se aprono dei mercati diversi, gioco forza deve investire sul mercato del lavoro. Però ripeto, è un passo avanti che Confindustria ha condiviso e quindi lo vediamo sicuramente di buon occhio. Ecco, anche perché il sistema del lavoro ha subito, come tutto poi il sistema produttivo, dei cambiamenti molto forti negli ultimi anni. C'è una rivoluzione tecnologica in atto a cui l'industria deve rispondere e in parte ha risposto, almeno c'è stata una grande ristrutturazione delle imprese. La provincia di Varese, che è una delle province più industriali d'Italia, a questo punto che giudizio può dare sul cammino di ristrutturazione, sul cammino di ammodernamento delle imprese? Beh, il processo, visto gli anni di crisi, è stato molto violento e repentino, perché naturalmente durante gli anni di crisi l'impresa deve riposizionarsi e come prodotti e come processi. E all'interno di queste due fattispecie c'è anche il mercato del lavoro. Tutte le imprese hanno cercato di ottimizzare gli impianti e quindi ottimizzare impianti e impieghi di lavoro, cercando di ridisegnare il proprio ciclo produttivo, perché sennò abbiamo capito che in 7 anni o cambiavamo pelle o era difficile stare sui mercati internazionali. Quindi anche la provincia di Varese è una provincia a forte vocazione manifatturiera e forte vocazione di export, ha dovuto reinventarsi anche i propri prodotti. Ecco, la provincia possiamo descriverla così sommariamente: qui sono delle grandi imprese pubbliche e private, italiane ed estere, ma anche una ragnatela di piccole e medie imprese che però riescono a difendersi, che hanno trovato anche delle nuove strade. Non ci sono più i grandi complessi tessili, della carta, delle calzature, ma c'è una struttura di piccole e medie imprese che ha un grande dinamismo. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere la grandissima impresa sia nel settore aeronautico, nel mercato del bianco, nel food o nella meccanica, però nello stesso tempo abbiamo uno strato di subfornitura molto qualificato, ben radicato sul territorio e che fa costantemente innovazione e ricerca. E questo gli ha permesso, in questi anni di grave crisi, di rimanere sui mercati e nazionali ed internazionali. E di più, è riuscita ad aprirsi dei mercati nuovi, tale per cui ha saputo far conoscere, attraverso i cluster, attraverso le reti d'impresa, i propri prodotti, mettendosi insieme agli altri. Ecco, quindi anche una logica di cooperazione attraverso l'impresa, non solo di concorrenza, ma anche di creare quelle strutture per cui il vero problema non è il concorrente che ho di fianco a casa, ma è la possibilità di andare a esportare sui mercati internazionali. In questo senso anche una realtà come un'unione industriale può avere i propri punti di forza, i propri punti di azione. Noi abbiamo sempre fatto da collante nei progetti di aggregazione di impresa, perché purtroppo non è più il tempo di rimanere isolati e rimanere da soli. Le grandi commesse all'estero si prendono se si è uniti, perché spesso rimanere isolati con il proprio prodotto e non essere all'interno di un contesto industriale rischia sì di avere una buona produzione, di avere un buon prodotto, ma non sufficiente per competere per i grandi mercati. Quindi l'unione industriali fa da collante per mettere insieme, cercando di far dialogare competitors che spesso però dialogando riescono a fare del bene comune e riescono a trovare business comune. Una logica win-win in cui ci si guadagna in due riuscendo appunto ad essere più competitivi verso l'esterno. Ecco, da presidente in questi 3 anni, qual è la richiesta più comune, più continua che le fanno le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese? Noi abbiamo focalizzato l'attenzione sul processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, quindi quelli che non avevano una forte vocazione o una struttura per poter andare all'estero, proprio per portarli e pilotarli in alcuni paesi emergenti. Abbiamo fatto missioni in Brasile, l'abbiamo fatta in Cina, andando a visitare le aziende di imprenditori varesini che hanno un'azienda produttiva in questi paesi, per aggredire, per meglio servire quel paese, perché non è che aprendo paesi imprese in quei paesi depotenziano l'Italia, anzi è prodromo per una crescita costante, perché se non ci fossero stati quei paesi dall'Italia non si potevano servire. Quindi una forte vocazione per cercare di far internazionalizzare le nostre piccole imprese, portandole proprio per mano a visitare le opportunità in alcuni paesi difficili. L'altra, abbiamo puntato molto sul credito, perché vista la crisi finanziaria che c'è stata ed è in atto, abbiamo cercato di fare molti accordi con delle banche presenti sul territorio in maniera tale che avessero delle condizioni agevolate o di riguardo, essendo associate alle unioni industriali. Terzo, una formazione costante degli imprenditori su temi finanziari e temi industriali, perché anche l'imprenditore deve andare a scuola e deve continuare a formarsi. Certo, anche perché imprenditori magari si nasce, ma però si deve anche restare imprenditori, e la realtà esige dei cambiamenti anche di atteggiamento, di cultura, di puntare molto sull'innovazione. Per esempio nell'ultima assemblea avete puntato molto sul sollecitare l'innovazione, andare a vedere le possibilità operative che danno per esempio le stampanti 3D o queste nuove realtà che si muovono, possono sembrare dei giocattoli, invece possono entrare anche in produzioni di alta tecnologia. In un momento congiunturale come questo, il fatto di reinventarsi i prodotti è decisamente strategico, e noi, attraverso l'università che l'Unione Industriale ha creato a Castellanza, la LIUC, ha voluto mettere un laboratorio Smartup proprio per le stampanti 3D, perché pensiamo che in alcuni settori veramente molto trasversali la prototipia può essere una fucina per delle nuove imprese. Incontri. Ma la televisione ha detto che è il nuovo anno, porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ancora con Lucio Dalla, l'anno che verrà sarà festa tutto il giorno, forse non sarà così il 2015, però un po' più di festa rispetto agli anni passati, speriamo di poterla avere. Riprendiamo il nostro incontro di questa sera salutando ancora quanti ci ascoltano e salutando Giovanni Brugnoli, presidente dell'Unione Industriale della provincia di Varese, imprenditore. Abbiamo parlato nella prima parte delle prospettive, delle difficoltà delle imprese, ma anche della logica che sta muovendo appunto le imprese, associandosi, mettendosi insieme, cercando di cooperare, cercando di internazionalizzarsi, andando verso i nuovi mercati, verso una ricerca di una domanda estera che può essere veramente il motore di una ripresa possibile in Italia. Abbiamo concluso parlando di giovani. Giovanni Brugnoli accennava appunto all'esperienza dell'Università di Castellanza, che è stata voluta dall'Unione degli Industriali e che anche all'interno dell'Università di Castellanza si stanno portando avanti dei progetti, delle iniziative per sviluppare appunto l'innovazione. Come va l'università, dottor Brugnoli? L'università sta rivivendo una seconda giovinezza, perché abbiamo un numero crescente di iscritti per quest'anno accademico. Infatti abbiamo registrato un più 25% rispetto all'anno scorso. C'è grande attenzione anche nei confronti del nostro campus, perché abbiamo migliorato l'offerta della residenza dei nostri studenti e quindi siamo decisamente soddisfatti e abbiamo un approccio molto pragmatico nei confronti delle esigenze delle imprese e abbiamo un occhio molto ampio per il discorso dell'internazionalizzazione, quindi stiamo cercando e stiamo chiudendo accordi importanti con università di tutto il mondo proprio per uno scambio interculturale tra i nostri studenti e gli studenti di questa università. I giovani d'oggi sembrano abbastanza aperti, quasi desiderosi anche di fare esperienza all'estero, di andare all'estero. Speriamo che vadano all'estero, ma che poi tornino anche. Quindi come vedi i giovani d'oggi? I giovani li vedo molto vogliosi di queste esperienze all'estero, perché capiscono che vedere paesi nuovi, capire culture diverse fa parte di un bagaglio culturale che non possono permettersi di perdere. Avere un'università disponibile a fare questo genere di percorso è sicuramente un plus, e li vedo anche motivati a una mobilità anche nella ricerca del lavoro. Quindi il fatto che ritornino meno, l'importante è formare dell'intelligenza. Qualcuno trova anche l'anima gemella magari all'estero, magari si ferma anche per quello. Quindi le vie del Signore sono infinite, quindi possono anche esserci queste vie. Anche questo diventa positivo, soprattutto se magari poi nascono una famiglia, riescono a fare un po' di figli, a sollevare un po' questa tendenza demografica che in Italia invece è un po' ferma. Questo è uno dei problemi italiani. Ecco, guardando appunto a questo 2015, abbiamo detto veniamo da un anno in cui abbiamo anche gli imprenditori hanno un po' trattenuto il respiro, hanno cercato di tenere durante la crisi. Come vede le prospettive di quest'anno? C'è una domanda estera che sicuramente su cui si deve fare affidamento, come dicevo all'inizio, ma la domanda interna resta fiacca. Questo paese è ancora abbastanza deludente e deluso. Secondo me il grande problema è la questione europea. Vediamo il blocco americano, che è cresciuto indicativamente il 4% nel 2014, quindi ben sopra le aspettative iniziali. Vediamo che la Cina sì, ha avuto una leggera debolezza rispetto ai dati che si aspettava, ma comunque siamo al di sopra del 7% in maniera molto abbondante, e vediamo purtroppo che il nostro continente, l'Europa A28, veramente non ha una crescita omogenea. È questo il vero problema che bisogna porre l'attenzione. Essere all'interno di una comunità dovrebbe far sì che abbiano tutti una crescita tendenzialmente omogenea. Ora, che la Germania possa crescere al 3% e gli altri paesi allo 0, credo che non sia la mission della comunità europea, e quindi io chiedo con gran forza il fatto che si ritorni alle origini di essere in una comunione, ovvero che ci sarà sicuramente quello che è decisamente più bravo, ma che non deve essere penalizzato quelli che ha avuto o che hanno qualche problema, ma anzi bisogna aiutarlo con la giusta severità, ma con il giusto accompagnamento, certo, delle regole del buon padre di famiglia, tale per cui si corregga, ma sia nello stesso tempo si cerchi di accompagnare. Ecco, avere, sì, cifre alte e cifre che sono meno 0, o più 0, è una stortura di questo assetto. Anche perché non è utile nemmeno la Germania, che il mercato italiano sia fermo. Il mercato italiano in fondo è un grande mercato anche per i prodotti tedeschi, sono dei grandi acquirenti non solo di Mercedes e BMW, ma anche di prodotti, di tanti prodotti tedeschi. Quindi dovrebbe essere anche un interesse complessivo quello di attuare una crescita che sia, se non del tutto omogenea, comunque perlomeno simile. Noi sicuramente siamo sia in ingresso che in uscita i partner commerciali della Germania, e anche qui l'impresa in questi anni, oltre che a rifare e rivisitare i processi produttivi e i prodotti, ha subito uno shock geopolitico tale per cui, nonostante tutto, si è dovuto ritrovare a dover rimettere in piedi dei mercati, per esempio quello russo, che si fa una fatica tremenda a costruire dei rapporti con quei paesi, certo, e per via di congiunture diverse rischiano di andare in fumo. Ecco, peraltro c'è anche un problema, diciamo, interno. L'Italia, lo sappiamo, è un po' divisa in due, tra un nord che è abbastanza europeo, che ha anche dei livelli di crescita, livelli industriali vicini al resto d'Europa, e un sud che invece è molto più arretrato. Quando si parla di Varese, io penso che molti nostri ascoltatori pensino immediatamente alla Lega. Ecco, non vogliamo parlare di politica, però anche la Lega sta un po' cambiando, sta capendo che o cresce tutta l'Italia, oppure le illusioni della secessione sono qualcosa di leggendario. Credo che parlare di secessione nel 2015 sia veramente una forzatura inutile, oltre che decisamente. È vero, anche nel nostro paese ci deve essere un'omogeneità di crescita. Ognuno deve fare la propria parte, perché dopo bisogna dire che ognuno deve fare la propria parte, quindi che si mettano tutti al lavoro per il bene e per la crescita comune, perché sennò c'è il rischio che la regione Lombardia si comporta e spende in una maniera, altre regioni spendano in maniera meno virtuosa. Ecco, aiutiamo il cammino del virtuosismo. Il virtuosismo, ecco, sennò il rischio di tagliare a tutti perché si spende troppo complessivamente penalizza anche le regioni virtuose. Penalizza decisamente le regioni virtuose, perché è come i tagli lineari che fanno i ministeri: quelli che hanno risparmiato fino a quel giorno e si vedono in maniera asettica tagliare il proprio budget, è evidente che faranno molta più fatica a fare dei sacrifici, quando invece in altri ci sono delle sacche di risparmio decisamente più visibili e più facili da individuare. Certo. Ecco, stiamo andando verso la conclusione. Abbiamo iniziato anche citando, ha citato Giovanni Brugnoli, presidente dell'Unione Industriale Provincia di Varese, l'Expo 2015. Siamo a pochi mesi dall'apertura, il cantiere sembra ancora un cantiere aperto, ma ce la faremo comunque. Ce la faremo sicuramente, perché il nostro spirito di arrivare comunque alla meta in maniera adeguata ce l'abbiamo. Probabilmente abbiamo perso diverso tempo inutile o comunque improduttivo. Cerchiamo di fare bella figura e la faremo, anche perché abbiamo un paese straordinario che sa fare impresa in maniera straordinaria, con dei prodotti eccellenti. Quale miglior vetrina, certo, per far sì che il nostro paese da questo evento giri pagina veramente. Però bisogna fare delle scelte. Certe volte le scelte o non si fanno, vengono rinviate, o si fanno male. E vorrei citare l'aeroporto della Malpensa, che è una realtà importante economicamente all'interno della, non solo di Varese, ma della Lombardia, e che invece è stato penalizzato negli ultimi anni da scelte politiche abbastanza ondivaghe. In questo senso c'è la possibilità di un rilancio anche di un grande aeroporto come quello, che potrebbe essere a livello di aeroporti come quello di Francoforte o di Londra. Ma io credo che il nodo sia tutto politico, perché l'infrastruttura c'è, fa 18 milioni di passeggeri, anche ha fatto nel 2014, quindi è un aeroporto vivo, ha delle grandi potenzialità in termini infrastrutturali, adesso è collegato in maniera adeguata. Ricordiamoci che quando atterriamo a Londra o atterriamo a Francoforte, non è che arrivare a Francoforte, certo, centro ci si metta proprio 2 minuti. Perciò viviamo nello stereotipo che negli altri paesi fare un'ora di macchina per arrivare in città va bene, farlo da noi partendo e arrivando a Malpensa e mettendoci 45 minuti per arrivare a Milano sembra una stortura. Ecco, averlo proprio sotto casa non è sempre possibile, perché se vediamo il nuovo assetto degli aeroporti italiani, Malpensa viene considerato un aeroporto strategico. L'infrastruttura c'è, funziona, portiamoci gli aerei con i passeggeri. Utilizzare bene le infrastrutture, un'altra prospettiva che avremo non nel 2015 ma nel 2016 sarà l'apertura della galleria di base del Gottardo, in cui i treni ad alta velocità arriveranno rapidamente dal centro Europa. Anche questa è una grande opportunità per una realtà come quella della Lombardia, oltre che di Varese. Noi purtroppo in Lombardia abbiamo un deficit infrastrutturale veramente importante. Eravamo all'avanguardia a fine anni 80, poi ci siamo fermati, e adesso pensare che attraversare la Lombardia da ovest a est si debba passare comunque da Milano mi sembra una cosa veramente d'altri tempi. Ricordiamoci che la Milano-Varese è stata la prima autostrada nel mondo, quindi visto che le strade e le autostrade siamo capaci di farle, e quindi avevamo ben preciso e ben in mente un concetto di infrastruttura, sono convinto che il governo insieme a Regione Lombardia possa fare tanto, così come sta facendo con i cantieri aperti, per migliorare la viabilità della nostra regione. Questo potrebbe essere anche un augurio per concludere per il 2015. Muoviamoci, ma dateci anche la possibilità di muoverci. Assolutamente, perché noi abbiamo sempre la valigia in mano, dateci le strade, dateci gli aeroporti adeguati e noi porteremo il nostro bene a disposizione di tutti. Grazie Giovanni Bugnoli. Grazie a lei e auguri. Grazie di essere stato con noi questa sera, auguri anche a tutti quanti ci ascoltano, auguri anche a Gianmarco Ferronato in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie, buona domenica e buon anno.